Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. Noi siamo qui. Abbiamo Filippa Oreggi, regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione e come sempre il nostro sommario. Calcoli renali. Sassolini da non sottovalutare. Quanti denti ti mancano? Te lo chiede il tuo cuore. Dynamo Camp, un posto magico dove la vera cura è ridere e la medicina l'allegria. Calcoli. C'è qualcuno che ha una certa predisposizione a farli e a rifarli, ma i calcoli di cui parliamo oggi non hanno nulla a che fare con la matematica, bensì con i nostri reni. Forse questa precisazione era inutile, ma voi vi siete mai chiesti perché con tutti i nomi a disposizione questi sassolini sono stati chiamati così? Che ci sia una relazione o invece è solo mancanza di fantasia? Se avete una risposta, 800 24 0024, potete anche, come sempre, scriverci un messaggio al 349-238-6666. Intanto io saluto il professor Giuseppe Remuzzi, coordinatore delle ricerche del Mario Negri di Bergamo, che è qui in studio con me. Professore, buongiorno e bentornato. Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti. Perché calcoli? Calculus viene dal latino, erano dei sassolini che si usavano come un pallottoliere per fare di conto. Per questo allora. E allora, siccome sono sassi, li hanno chiamati calcoli come quei sassolini lì. E allora, a proposito di sassi, per me ci sono troppe S, quindi meglio pietruzze. Ecco, il calcolo viene spesso anche chiamato la pietruzza, i sassolini. Che cosa ci dice questa paragone? Sì, sono dei sali minerali che si formano nell'urina e si formano perché o noi eliminiamo troppi di questi sali minerali, per esempio il calcio, per esempio lo ossalato, per esempio l'acido urico, per esempio certe sostanze, la cistina, e queste sono forme rare, sono difetti genetici, oppure abbiamo troppa poca presenza nelle urine di inibitori della cristallizzazione, cioè questi sali minerali, quando hanno una concentrazione alta nell'urina, cristallizzano, formano dei cristalli, e questa è la base della formazione della piccola pietra. Nell'urina, per fortuna, ci sono delle sostanze che impediscono a ossalato e a calcio di formare cristalli e quindi di cristallizzare. Se noi eliminiamo troppi sali minerali o abbiamo troppo poche di queste sostanze che impediscono ai sali che ci sono nell'urina di cristallizzare, si formano i calcoli. Allora, bene, naturalmente noi ne faremo volentieri a meno di questi sassolini, restate quindi perché chiederemo al professor Remuzzi di suggerirci cosa fare per evitare che si formano. Se li avete scoperti per caso, ma sino ad ora sono stati lì buoni senza darvi alcun problema, chiamateci perché vi diremo come convincerli a continuare a comportarsi bene. Se invece avete a che fare con calcoli che soffrono di, come posso dire, manie di protagonismo, quindi si fanno annunciare da coli che poi tornano e ritornano, questo è il momento di capire cosa fare per dare loro forfè. 800 24 0024, aspettiamo le vostre chiamate al nostro numero verde o i vostri messaggi al 349 238 6666. Una mela al giorno. E a proposito di calcoli, provate a fare un rapido conto dei denti che avete in bocca. Manca qualcuno all'appello, quanti per la precisione? Dovete essere precisi perché il numero sembra fare la differenza. Una ricerca per la prima volta ha rilevato un rapporto diretto tra numero di denti mancanti e malattie cardiovascolari. Ne parliamo con il professor Roberto Weinstein. Buongiorno professore. Buongiorno dottoressa. Direttore della clinica odontoiatrica all'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano e ordinario all'Università degli Studi. Professor Weinstein, allora, denti e cuore. Ma denti e cuore, c'è una correlazione ben stabilita. In altri termini, è stabilita la correlazione tra presenza di malattie dei tessuti di supporto, cioè malattie del parodonto, infiammazione delle gengive e insorgenza di malattie cardiovascolari. La letteratura è ampia e oggi sembrerebbe ben dimostrato. Per quanto riguarda il numero dei denti, va fatta una precisazione. Sì. Il numero di denti persi è il segno, è la traccia che ci sono state delle patologie nella bocca di quel paziente o ci sono ancora. Allora, se si tratta di patologie cariose, cioè carie, il paziente ha perso i denti per questa ragione, questo non influenza la patologia cardiovascolare. Se invece il paziente ha perso dei denti a seguito di lesioni parodontali, infiammazione dei tessuti di supporto, allora ci può essere questa correlazione. Quindi il numero di denti perduto è la traccia, è il segno che qualche cosa è avvenuto oppure che qualche cosa è ancora presente nella bocca del paziente. Quindi, professore, chi i denti li ha persi e li ha sostituiti con un impianto non rischia più perché si è curato. Assolutamente, perché non c'è come l'estrazione del dente per chiudere un certo tipo di malattia. Senza il dente, la malattia del parodonto, cioè di tutto quello che sta attorno al dente, non ha più ragione di esistere. Quindi, più che una relazione tra denti e cuore, c'è una relazione tra salute delle gengive e cuore. Questo possiamo... tra salute delle gengive e, diciamo, malattie cardiovascolari, quindi anche ictus oppure danni alla placenta nelle signore o signorine che aspettano un bambino e quindi il rischio di nascita di bambini a peso molto più basso, che può essere un problema. Professore, chiudiamoci con un consiglio. E continuiamo, le cose Repetita non cambiano. Juventus. Continuiamo a lavarci i denti, continuiamo molto bene a fare delle visite periodiche per scoprire le lesioni in modo precoce e soprattutto a non fumare. E a tutto questo aggiungiamoci una vita sana, igienica, con pochi zuccheri, con poco grasso e correndo tanto, perché se un giorno vuole le racconto quali correlazioni esistono tra l'essere sovrappeso e l'ammalarsi. Grazie professor Weinstein, allora alla prossima con questa promessa. Buona giornata a lei. Buona giornata a tutti, grazie. Pronto soccorso. E noi torniamo a parlare di calcoli. O non si fanno sentire o si fanno sentire troppo. Meglio non averli. Ma nell'eventualità, professor Remuzzi, meglio saperlo o non saperlo? Perché molte persone scoprono di avere i calcoli per caso. La diagnosi arriva come un fulmine a ciel sereno. E uno non ha mai avuto sintomi, mai avuto dolore. Ma tant'è che quando il medico dice lei ha i calcoli, qualcosa in noi cambia. Meglio assolutamente saperlo, perché se lo sappiamo noi possiamo prevenire che si formino altri calcoli. Quando il calcolo si forma la prima volta, uno va dal medico, viene, come ha detto Nicoletta, fulmine a ciel sereno. Il punto è che la persona che ha fatto i calcoli una volta ha il 15% di fare un'altra colica quell'anno lì e nel giro di 10 anni quasi la metà dei pazienti hanno altre coliche. Quindi è molto importante che alla prima avvisaglia segua tutta un'attenzione per poter prevenire che si riformi il calcolo. Averlo una volta è una cosa tollerabile, averlo ripetutamente condiziona in modo negativo la qualità di vita e poi a un certo punto ci possono essere dei danni importanti alla rene, agli ureteri, alla vescica. Professore Muzzi, ma voi potete prevedere il comportamento del calcolo o lo potete solo visualizzare? Cioè, se io mi viene diagnosticata la presenza di un calcolo, chi mi dice che si muoverà? Si può prevedere, perché dipende da dov'è il calcolo. Il calcolo può essere in una zona abbastanza tranquilla in cui si può prevedere che non darà particolari problemi di dolore, che non si muoverà, ma può essere invece in una zona per cui si può immaginare che ostruisca il deflusso dell'urina e questo quindi diventa un problema, è importante intervenire. Lo si può certamente visualizzare, prevedere come si muoverà non è così facile, però ci sono, diciamo, sedi a rischio e sedi meno a rischio. In ogni caso i calcoli è bene che non ci siano, se ci sono vanno eliminati. Qual è il modo migliore per fare una diagnosi corretta? Ma intanto si fa un'ecografia, sì. E si vede la presenza del calcolo, si vede se è nel rene, si vede se è nell'uretere, che sono quei canalini che confluiscono l'urina dal rene alla vescica, si vede se è eventualmente nella vescica o persino nell'uretra, che è l'ultima parte delle vie urinarie. E poi serve una radiografia, perché la radiografia ci dice moltissimo della composizione del calcolo. Il calcolo, quando lo eliminiamo, è bene cercare di conservarlo, di averlo in mano in un certo senso, perché allora lo portiamo in laboratorio e il laboratorio ci dice di cosa è fatto. Ma quando non è stato eliminato, allora noi con la radiografia possiamo vedere, per esempio, se un calcolo, i radiologi dicono, è radio opaco, quindi è molto denso, è opaco, ecco, allora quello lì sarà probabilmente un calcolo di ossalato di calcio, che sono i più frequenti, l'80% dei calcoli. O può contenere fosfato, oppure può essere trasparente, si vede all'ecografia, ma non è radio opaco. Ecco, il suo è un segno indiretto nella radiografia. Ecco, quello lì sarà un calcolo di acido urico. Poi ci sono dei calcoli che hanno altre caratteristiche intermedie e ci sono dei calcoli che dipendono dall'avere delle infezioni frequenti delle vie urinarie. Quelli sono calcoli di ammonio e magnesio che i medici chiamano distruvite. Abbiamo Marco che ci chiama da Roma. Buongiorno Marco. Buongiorno, buongiorno e grazie. Dunque, io ho avuto un anno e mezzo fa una colica sul rene destro, però in ospedale mi hanno riscontrato una chiusura quasi totale però del rene sinistro per un grosso calcolo, che è poi la situazione che mi ha dato poi più fastidio nel tempo, perché ho avuto l'idrotrissie, cose varie. E volevo sapere se questa cosa poteva essere recidiva, visto che in qualche modo sono riusciti a farlo esplodere, insomma a liberare l'uretere, e mi ha lasciato comunque il rene dilatato. Volevo sapere se era possibile che il rene ritornasse anche nella sua origine, cioè che non abbia più problemi. Ecco, queste due cose, la recidività del calcolo che posso ostruire e il rene dilatato. Grazie Marco. Professore Calcoli Muzzi. Recidivano molto spesso e quindi bisogna fare tutta una serie di misure per evitare la recidiva. Il calcolo che ostruisce va tolto, come penso sia in questo caso. Quando si elimina l'ostruzione, l'albero urinario ritorna alla sua origine, ritorna non proprio come nuovo, perché ci possono essere stati dei processi di infiammazione o di fibrosi intorno al calcolo, ma insomma ritorna al suo stato di pervietà, cioè è libero, consente un deflusso normale dell'urina. È assolutamente importante rimuovere un calcolo che ostruisce, perché alla lunga questo può comportare un danno anche permanente alla funzione del rene. Professor Remuzzi, ma il sangue nelle urine può essere con dolori un po' diffusi, dolorini come ci scrive un ascoltatore, più che altro una pesantezza, potrebbe essere un segnale della presenza di un calcolo? Una delle cause più frequenti del sangue nelle urine è proprio la presenza di calcoli, che certe volte sfregano sulla parete dell'uretere, questo condotto che collega il rene con la vescica, e la fanno un pochino sanguinare. Troviamo sangue nelle urine che normalmente si vede, e quindi, perché il sangue nelle urine può essere anche occulto, non si vede, possono essere una piccola quantità di globuli rossi, quello capita più spesso nelle malattie delle rene. I calcoli danno proprio questa alterazione della parete dell'uretere, che si infiamma, sanguina un pochino, e allora troviamo il sangue nelle urine. Il sangue nelle urine lo diciamo in generale, non ci dobbiamo mai dimenticare di ribadirlo, è sempre un segno suggerire un approfondimento. Può essere una cosa banalissima, ma può essere anche una cosa grave. Il sangue nelle urine può essere un tumore della vescica o del rene, per esempio. Quindi non sottovalutiamo mai il sangue nelle urine, ma non allarmiamoci, perché la maggior parte i casi di presenza di sangue nelle urine sono di cose benigne, i calcoli per esempio. Miranda ci chiama invece dalla provincia di Cagliari. Buongiorno Miranda, benvenuta. Buongiorno, grazie. Dunque, io circa da 30 anni so di avere due calcoli, adesso sono abbastanza grandi perché li ho visti con i raggi, sì. Alla cistifelia, però non ho mai avuto problemi. È il caso di operare o posso tenermeli? Grazie. Allora, qua parliamo di calcoli alla cistifelia, ma abbiamo voluto dare una risposta a Miranda, così rispondiamo anche a tanti messaggi che stanno arrivando su calcoli su altre sedi. Noi calcoli ci occupiamo su altre sedi. No, adesso parliamo di rene, ma nella cistifelia, se il calcolo è tranquillo, se non dà febbre, se non dà dolori, se non dà nessun disturbo, si può tenere. Va fatto un monitoraggio, cioè va seguito periodicamente, bisogna vedere che non si muova, va fatto ogni tanto un'ecografia e vanno fatti degli esami della funzione del fegato. Un calcolo alla cistifellea, magari un po' grosso, che sta nel contesto della cistifellea, che non va a finire nelle vie biliari, non è un problema se non dà disturbi. I calcoli, lo sappiamo, tutti noi li associamo alla colica. Chi l'ha provata dice che sia un dolore fortissimo, quasi più di quello del parto. Perché? Scusa, ma mi sento molto male. Perché? Che te sei? Mi è venuto una fitta qui che... Ai, adesso mi corrisponde anche qui dietro e mi fa vino sul collo. Ah, oh, sono troppi sti posti, sei nervoso. Ah. È nervosismo, ti è, fumate una sigaretta, dai. Ma no, dai, ti prego. No, dai, fermati per piacere. Ecco, perché non, ecco, perché non provi a dormire? Forza, abbi fede, alzate e cammina, andiamo, su, andiamo, andiamo, dai. Papà tu passi, forza, abbiamo un po' d'aria, dai. Vuoi che cammino, non ce la faccio, dai. Ma sai che si tratta, l'ha piato altre volte? No, stamattina c'erano delle risaglie, ma mai così forte. Allora vedi che è nervoso, forza, prova con me a farmi respiro lungo, dai, dai, dai. Aia! A capo! Ci avrei da fare la guardata uno. Di che si tratta? Sta male del suo, si è piegato tutto mettendosi come la mano qua, no? Ma che te stai a fare? Sono sotto una colica. Professor Remuzzi, fai un bel respiro, dai che stress. Invece, insomma, sono dolori molto forti. Sono dolori tutte molto le forti. Coliche danno... Pensate, nel 1549 Michelangelo ha scritto a un suo nipote, il nipote si chiamava Leonardo: Leonardo, io ti scrissi per l'ultima mia del mio male della pietra, il quale è cosa crudelissima, come sa chi l'ha provato? Vedi. E quindi dicono esattamente che sia quello che è successo a questo signore. A Verdone. Dicono che sia una malattia del benessere, allora no. No, non assolutamente, ce l'aveva Leonardo, ce l'aveva anche, gli egizi, vero? Ce l'avevano gli egizi, ce l'aveva Napoleone, ce l'aveva Isaac Newton. E poi c'è una cosa interessante, il Ippocrate, che è stato il primo medico, diciamo, o comunque il primo che ha sistematizzato in un certo senso la medicina, nel suo giuramento ha scritto: farò questo, farò quello, non opererò coloro che soffrono del male della pietra, ma mi rivolgerò a coloro che sono esperti di questa attività. Magnifico. E questo fa vedere come il lavoro degli urologi che tolgono questi calcoli è un lavoro delicatissimo, è un lavoro che va fatto in mani esperte, se no succedono dei guai. Professor Remuzzi, noi apriremo un capitolo sulla dieta e sullo stile di vita, perché arrivano tantissimi messaggi: quanto devo bere, quale acqua devo bere, posso bere il caffè, devo eliminare i formaggi, e tante domande, no? Fanno bene gli integratori, le vitamine sì, le vitamine no, c'è tanta confusione, tanti luoghi comuni, ci sono persone che si mettono a dieta o bevono litrate d'acqua pensando in qualche modo di far muovere questi calcoli, che poi se stessero lì calmi e tranquilli forse ci guadagnerebbero. Allora, avete scoperto di avere dei calcoli? L'avete scoperto per caso o invece si sono annunciati con una colica? Che cosa state facendo? Avete cambiato in qualche modo il vostro stile di vita, la vostra dieta in particolare? Noi vogliamo proprio focalizzarci su questo aspetto e andiamo a Paolo, che ci chiama da Livorno. Buongiorno Paolo. Sì, buongiorno. Buongiorno. Voglio sapere se l'uso quotidiano di pepe può causare la formazione dei calcoli e se cambia qualcosa fra crudo e cotto. Cioè il pepe aggiunto in cottura ho messo sulla pietanzina, giusto? Ma Paolo, ma quanto pepe mangia per farle venire, per insomma, perché le venga un dubbio così forte? No, siccome lo metto quasi sempre ovunque nella pasta. Professor Remuzzi, pepe e no, io il pepe non è un problema, non aumenta l'eliminazione di calcio e nemmeno di ossalato. Invece è vero che mangiare troppe proteine ha più possibilità di formare i calcoli, ci scrive Antonio da Roma, e il succo di limone invece aiuta ad eliminarli? È bravissimo, Antonio. Bravo, ha preso il punto, sì. Assolutamente è così. Le proteine che derivano dalla carne sono ricche di amminoacidi che contengono zolfo e questo va a finire nelle urine sotto forma di acido solforico e rende le urine più acide. Uno dei segreti per non far formare i calcoli è non avere urine acide, quindi chi ha avuto un calcolo dovrebbe, e questo vale soprattutto per i maschi, mangiare meno carne. Invece il limone aumenta l'eliminazione nelle urine di citrato, che è quella sostanza, è una delle due sostanze, sono il citrato e il magnesio, che sono responsabili di impedire la formazione di cristalli, di impedire che queste molecole di sali minerali si aggreghino tra loro formando appunto il sassolino. Il limone è importantissimo. Noi stiamo proprio facendo uno studio adesso in cui vediamo la formazione di calcoli e quindi vediamo se si previene la recidiva del calcolo in persone che prendono 5 limoni al giorno, che sono circa 100 millilitri di limone. Beh, tantino però. Possibilmente sciolti nell'acqua, così uno beve anche, perché il segreto per non far formare i calcoli, il consiglio in assoluto più importante per tutte le forme di calcolosi è bere molto e costantemente durante tutto il giorno, in modo da produrre almeno 2 litri di urina. Questo limone, idealmente, noi vorremmo che gli ammalati, per prevenire la formazione di nuovi calcoli, prendano 5 limoni al giorno. Ma abbiamo visto che anche 2-3 limoni sono sufficienti per rallentare o per ridurre la frequenza di nuovi calcoli. È vero che bisognerebbe bere sempre prima di andare a dormire un po' d'acqua per evitare la formazione dei calcoli? Beh, perché questa... La notte è un po' un momento. La notte è un momento, le urine si concentrano di notte. Qualcuno diceva, io avevo un professore di Londra che diceva sempre: i calcoli si formano alle 3 di notte. Allora il segreto è bere prima di andare a dormire, uno poi si alza di notte per urinare, e quella lì è l'occasione per bere ancora un paio di bicchieri d'acqua, magari con un pochino di limone, e allora questo previene la formazione di calcoli. È vero che dormire su un fianco piuttosto che dormire supino può fare la differenza? Ho letto anche questo. Beh, dipende da dov'è il calcolo, sì. E dipende dal fatto che uno stia tanto in una determinata posizione. Muoversi ogni tanto, girarsi, è sempre una buona regola. Andiamo all'acqua. Lei ha detto bere molto. Ci sono delle indicazioni sul tipo di acqua? Va bene quella del rubinetto? Bisogna scegliere delle acque particolari? No, l'acqua è tutto uguale, va benissimo quella del rubinetto. Non bisogna eventualmente prendere acque che contengano troppo calcio, per esempio acque che hanno più di 50-60 milligrammi di calcio per litro. Ma anche la questione del calcio è molto interessante, molto controversa, magari sì. Ne parliamo dopo della questione del calcio. Il punto è i calcoli sono fatti soprattutto di calcio, si elimina calcio, allora io introduco meno calcio e sono a posto, invece non è così. Errore perché addirittura adesso si sta vedendo che gli alimenti che hanno abbastanza calcio riducono la formazione dei calcoli, non è che l'aumentano. Certo che è bizzarro tutto questo. Voi avete capito perché? Beh, abbiamo capito perché. Quando uno mangia calcio, questo si complessa con lo salato che viene da altre sostanze. Uno sì. Mangia il latte, oppure prende il gelato, mangia il formaggio e mangia anche la frutta e la verdura in quel pasto lì. Sì. E lì dentro ci sono lo salato che viene dalla verdura, soprattutto il calcio che viene dal formaggio. Questi si complessano nell'intestino e non si assorbono. Ma se io ho meno calcio nel tratto intestinale, perché ne mangio di meno, perché faccio una dieta povera di calcio, allora lo salato è libero, si assorbe più facilmente, e la conseguenza di aver ridotto l'introito di calcio con gli alimenti è che io elimino più o salato, perché si è assorbito di più, si elimina di più, e quindi nelle urine tende a fare calcoli di ossalato di calcio. Quindi agli ascoltatori che mi stanno scrivendo: bevo il latte, sono a rischio calcoli, possiamo dire no? No, assolutamente. Una dieta che contenga una quantità normale di calcio, normale vuol dire 1200 mg al giorno, 1,5 grammi al giorno di calcio, questo è quello che c'è in una dieta normale, è assolutamente indicata addirittura per prevenire la formazione di calcoli, perché evita l'eliminazione di ossalato. I fondamenti della prevenzione dei calcoli sono sostanzialmente tre: bere, ridurre la quantità di sale. Quella va sempre bene. Quella va sempre bene, perché il sale aumenta l'eliminazione di calcio, quindi ridurre la quantità di sale e ridurre la quantità di proteine che acidificano le urine attraverso il meccanismo che abbiamo visto prima. Quello che si aggiunge recentemente, che deriva dagli studi più recenti, è aumentiamo anche la eliminazione con le urine di sostanze che impediscono la cristallizzazione, e queste sono fondamentalmente il citrato, che si può prendere sotto forma di citrato di potassio, ma fa altrettanto bene l'arancia e il limone. Il pompelmo no. Per una ragione che non sappiamo, il pompelmo tende forse ad aumentare la eliminazione di calcio. Insomma, il macio degli agrumi ancora sotto osservazione, sì, sembra che sì, faccia male. E invece abbiamo parlato di acqua, abbiamo parlato di latte, vorrei aprire il capitolo delle bevande, quindi tè, caffè, tè verde, che cosa ci dice professor Remuzzi? Ci sono delle indicazioni, delle quantità, delle controindicazioni? Allora anche qui uno ha... ai calcoli eliminiamo il tè, caffè, cioccolato, contengono tanto salato che insieme al calcio forma i calcoli, siamo a posto. No, in realtà secondo gli studi più recenti di ossalato in queste sostanze non ce n'è molto, e gli studi hanno dimostrato che bere caffè, tè e una quantità moderata di alcol diminuisce il rischio di calcolosi. Vorrei leggerle un messaggio di Norma che ci scrive da Verona. Dovendo assumere calcio per osteoporosi, rischio la formazione di calcoli? Ecco, il calcio, questo è un calcio diverso da quello che si assume per l'alimentazione. Mm. Perché il calcio dell'alimentazione si assume insieme allo salato, perché quando uno mangia calcio, mangia anche ossalato che viene, dalle verdure e da altri cibi. Se uno invece prende il calcio per come somministrazione di calcio, come medicina, sì, intanto quello si dice prendetelo lontano dai pasti. Quello lì è calcio solo, in quel momento lì nell'intestino non c'è ossalato, c'è solo lui e lui si assorbe e si elimina. Quindi il calcio aumenta la probabilità di formare calcoli quando si prende come supplemento di farmaco, non quello degli alimenti. Ecco, professore Muzzi, scusi, torno un attimo sulla somministrazione. Tante volte il medico, anche il famoso bugiardino, ci dà delle indicazioni sul momento in cui assumere il farmaco. Poi noi magari non siamo comodi, notiamo delle controindicazioni e facciamo di testa nostra. Il calcio assunto per terapia, lei ha sottolineato, va preso lontano dai posti. E quindi e ci ha spiegato anche la ragione. Quindi l'indicazione è fate come vi dico. No, nel senso assumete i farmaci, se c'è l'indicazione, nel momento in cui il vostro medico vi dice. Sì, certo, in generale ci sono dei farmaci che si possono assumere quando si vuole, perché essere a digiugno o prenderli con gli alimenti non cambia la capacità di questi farmaci di essere. Sì. Certi farmaci invece vanno assolutamente assunti con gli alimenti, altri vanno assunti lontano dei pasti. È molto importante quando si comincia una nuova terapia con qualunque farmaco sentire il medico o quantomeno guardare il bugiardino, che adesso è fatto molto bene, è fatto con caratteri grandi, sì, e ci sono delle domande, ci si mette un po' dalla parte degli ammalati. Allora, tè, caffè, tè verde, sì o no? Sì, assolutamente, anzi si è visto che diminuisce la formazione dei calcoli. Uno proprio, anche il cioccolato non è in assoluto controindicato, per la ragione che abbiamo detto prima. Certo, non bisogna esagerare, ma esagerare non va bene mai. Sandro da Verona ci scrive: ho un calcolo all'uretere, il mio medico mi ha detto di mangiare pochi latticini, allora ha sbagliato, professor Remuzzi? Mettiamo Sandro in difficoltà, crederò al professor Remuzzi o crederò al mio medico? In generale il calcio contenuto negli alimenti, e questo vale per il calcio, per il formaggio, aiuta a ridurre l'assorbimento dello salato, quindi non è una controindicazione. Valerio ci chiama da Firenze, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno professore. Buongiorno. Io sono un caso strano, perché in 22 anni ho avuto più di 100 coliche renali, di cui il mese di febbraio ne ho avute 13, ho fatto tutti gli esami possibili e immaginabili, sono solo da acidi urici, sono stati analizzati, ma non ho né acidi urici nel sangue, non ho acidi urici nelle urine, il pH delle urine è intorno tra i 5 e i 6, ho girato svariati professori, sono stato operato sia con il laser che con l'eritrocrizia, diventano tutti matti, sono stato sotto anche al CNR, anche lì mi hanno fatto fare un sacco di ricerche, il professore alla fine di tutte le cose mi disse se non c'era l'ecografia, dagli esami che si sono fatti non si riscontra niente. Ora un mese fa il mio medico curante è anche un urologo, quindi diciamo è impostato sul discorso, un mese fa sono andato da un altro professore e mi ha detto prova a salare un pochino meno perché forse anche il sodio può aiutare, però ecco, siamo mai venuti a capo di niente. Un caso complesso, eh? L'ho appena saputo, che cos'hai? Calcoli renali. Vede, di solito noi cerchiamo di frantumarli con delle onde sonore, ma i suoi purtroppo sono troppo vicini alla vescica. Quindi ora o aspettiamo che escano da soli o risaliamo lungo l'uretra e poi... Che cosa? No, no, no, no. Qui non risalirà mai niente, chiaro? Risalire... Risalire non si può. E poi che cos'è l'uretra? Oh mio Dio. Ce l'hai fatta, lo sai. Vuole vederli? Come sono piccoli. Come sono piccoli, ma che dolore, professor Remuzzi. Il nostro ascoltatore ci ha raccontato di una vita praticamente passata tra una colica e l'altra, e alla fine nessuno è riuscito a capire perché. L'unica indicazione è prova a ridurre meno sale dopo bombardamenti, laser, eccetera. Questo succede tante volte, si fanno gli esami alle persone che hanno i calcoli, delle volte si trovano degli eccessi, per esempio di acido urico nel sangue, si trova troppo acido urico eliminato nelle urine, ma la cosa più frequente è non trovare nessuna alterazione, esattamente come il caso di questo signore che però continua a formare coliche. Cosa vuol dire? Vuol dire che mancano degli inibitori della cristallizzazione, quello che abbiamo detto prima. E allora, poche proteine, poco sale, bere tantissimo e prendere il limone o il citrato di potassio, o il limone e il citrato di potassio, evitare la disidratazione. Questi sono i consigli che possono evitare. Qui c'è una tendenza genetica a formare calcoli di acido urico e ci sono delle persone che hanno questa predisposizione e adesso i ricercatori stanno trovando dei geni che sono associati alla mancanza o a una riduzione degli inibitori della cristallizzazione nelle urine. Qui abbiamo anche delle urine abbastanza acide, quindi si tratta di alcalinizzare queste urine. E si può anche ricorrere all'allopurinolo, che è una sostanza che evita l'eccesso di produzione di acido urico. Quindi le indicazioni che lei ha dato valgono per chi i calcoli non li ha e per chi ce li ha? Valgono per prevenire la formazione di calcoli, non si previene formazione di calcoli in uno che non ce li ha. In generale uno ha una prima colica e poi il problema è quello di prevenire, salvo che non si sappia che c'è una tendenza familiare a formare calcoli. Normalmente c'è nella famiglia, per esempio, la tendenza a formare calcoli di acido urico. Più gli uomini e più le donne? Più gli uomini, assolutamente. Gli uomini sono sempre peggio per le malattie, quasi sempre. Sono pochissime le malattie. Io non posso, non mi permetto. Gli uomini vivono di meno, le donne vivono più a lungo. Nella maggior parte delle malattie è un problema di essere uomini. Purtroppo gli uomini hanno un problema. Giuseppa ci chiama da Torino. Buongiorno. Buongiorno. Sono un po' emozionata. Comunque chiamavo per mio figlio, che all'età di 14 anni, dopo un episodio di mononucleosi, abbiamo scoperto che aveva dei calcoli ai reni, dapprima in uno e poi si è ripetuto nell'altro. Professor Remuzzi, quanti anni ha Giuseppa, suo figlio? Adesso ne ha 15. Sì. E dal febbraio del 2009 che è in cura al Mauriziano di Torino, il quale ci ha consigliato appunto di bere moltissimo, come dice il professore, di integrare col Bio K-Cheat Mag i due diversi tipi di Bio K-Cheat e poi per il resto devo curare l'alimentazione. Certo, professor Remuzzi. Però chiedevo, mi scusi, se a quell'età è normale avere a 14 anni. Bravo, è quello che chiedevo io al professor Remuzzi. Professore. Breaking news. Le 11:52 minuti, la notizia è stata battuta in questo momento dalle agenzie. Luca Cordero di Montezemolo ha lasciato la presidenza della Fiat, una voce che circolava già dal mattino. I vertici della Fiat incontreranno oggi pomeriggio alle 16 all'Ingotto i giornalisti per appunto delle comunicazioni urgenti. Dunque ci risentiamo nella prossima edizione di GR24. Professore, torniamo ai nostri calcoli. Sì, ci sono dei calcoli che si formano proprio nei ragazzi e proprio a quell'età. La media di formazione, per esempio, di calcoli di cistina, la media di età, sono 12 anni. Questi calcoli si sviluppano soltanto in persone che hanno una malattia che si chiama cistinuria. È una malattia genetica, si eredita con un sistema di trasmissione autosomico recessivo, come ci dicono i medici. Cosa vuol dire? E vuol dire che perché si manifesti la malattia bisogna ereditare la predisposizione genetica alla malattia sia dal papà che dalla mamma, che non hanno invece la malattia. E questo è dovuto a una cattiva solubilità della cistina nelle urine. Quindi è una malattia rara, una malattia molto particolare, ci sono delle precauzioni dietetiche che si devono prendere, che servono proprio a evitare i calcoli di cistina. Professore, ho sentito dire che le vitamine aumentano il rischio di calcoli, dato che c'è un gran ricorso a vitamine, integratori, e magari anche molti ascoltatori sentendo, no? Il limone fa bene, uno dice limone, vitamina C, mi prendo la vitamina C. C'è qualche indicazione a proposito? Ecco, ritorniamo a dare i consigli per i calcoli. 2 litri di liquido, eliminare sali e proteine, aumentare il potassio mangiando frutta e verdura, limitare gli zuccheri, perché anche gli zuccheri hanno il problema che tendono a far formare calcoli, quindi quando diciamo di bere non beviamo bevande zuccherate, e limitare la vitamina C. La vitamina C in grandi quantità aumenta la formazione di calcoli, perché la vitamina C è un precursore delle sostanze che poi vanno a finire nelle urine e cristallizzano in forma di questi sassolini. Professor Remuzzi, se il calcolo viene bombardato, ormai si usa spesso questo termine per appunto far riferimento alla tecnica che cerca di appunto sgretolare questi sassolini, la possibilità di tornare ad avere un nuovo episodio di coliche o di calcolosi è più alta, rimane uguale o è più bassa? Beh, ci sono due problemi diversi. Uno è tutto quello che dobbiamo fare per evitare che i calcoli si formino. L'altro problema, che non ha niente a che vedere col primo, sì, è cerchiamo di eliminare il calcolo quanto c'è, perché può ostruire, può far male, può essere sede di infezione e alla lunga può danneggiare la struttura del rene, specialmente se ostruisce il normale deflusso dell'urina. Allora, un passo avanti è stata proprio la litotrissia. Quindi sono delle possibilità che abbiamo oggi di frammentare il calcolo con onde di ultrasuoni che sono inviate da una macchina. Prima erano molto poco precise, quindi si facevano dei danni ai tessuti circostanti, si danneggiava il rene, si danneggiava l'uretere, c'erano tanti problemi. Invece adesso abbiamo delle macchine che mandano queste onde proprio nel calcolo con un modo estremamente preciso, è ben tollerata. Il punto è che qualche volta i frammenti di calcolo, perché queste onde fanno vibrare questo calcolo, il quale a un certo punto si rompe e si frammenta, ecco, i frammentini, ma succede solo in meno del 10% dei casi, poi dopo devono essere eliminati con le urine, fanno e male quando si è come eliminare, fare tante piccole coliche, e delle volte non si riescono nemmeno a eliminare del tutto. E in quei casi lì che uno pensa al danno e alla beffa, no? Un po'. Ecco. Professor Remuzzi, resti con noi, perché in chiusura io voglio parlarvi di un camp di terapia ricreativa, il primo in Italia, appositamente strutturato per bambini affetti da patologie gravi o croniche in terapia e nel periodo di post ospedalizzazione. Si chiama Dinamo Camp, è un luogo in cui, come recita lo slogan, la vera cura è ridere e la medicina è l'allegria. Ne parliamo con il responsabile medico, il dottor Jankovic, pediatra e emato-oncologo, responsabile dell'unità operativa degli hospital di emetologia pediatrica dell'ospedale San Gerardo di Monza. Buongiorno dottore. Buongiorno a voi. Ci racconta? Sì, allora nell'ambito soprattutto delle malattie emato-oncologiche, come in tutte le patologie ad andamento cronico, di fronte a fianco alla successi che oggi si ottengono, perché ricordo che soprattutto in quelle emato-oncologiche il 70-80% dei bambini, se adeguatamente curato, può guarire, sì. Ecco, di fronte a questo, di fianco a questo è nata in questi ultimi anni e si è implementata la cosiddetta, io intendo dire, la terapia umana, cioè quella ricreazionale, quella artistica, quella che consente al bambino e alla famiglia di attraversare il periodo soprattutto di cure o nell'immediato oscure nella maniera più serena e più disinvolta possibile. Questo è un dato aggiuntivo che sul piano qualitativo ovviamente fa la differenza. Ecco, fa la differenza, perché consente al bambino di accettare meglio le cure. Ecco, e soprattutto Dinamo Camp regala ai bambini malati la possibilità di essere solo bambini come tutti gli altri. Esatto. Dottore, io sono in chiusura e voglio ricordare agli amici da casa che sino al 30 aprile è in corso una campagna solidale di raccolta fondi per il Dinamo Camp. Potete andare naturalmente sul sito per avere tutte le notizie. Grazie al dottor Jankovic, buona giornata a lei e ai suoi bambini. Grazie. Professor Remuzzi, grazie, ma noi ci sentiamo presto. Va bene. Buona giornata a voi che ci avete ascoltato e seguito. Appuntamento a domani dopo il GR delle 11:00.